già la pace del mare lontano, fino alle verdi e trasparenti onde, dove il silenzio non ha più un richiamo e tutto si confonde. Dalle lagune grigio e nere, dal faticare senza riposo, dalla sete alla fame, allo spavento, al più segreto tormento. Avemmo padri, avemmo madri, fratelli, amici e conoscenti, ed imparammo a dare un nome nuovo ai nostri sentimenti. E così un giorno a camminare su questa terra sotto a un sole avaro, per un amore che sembrava dolce si è scoperto amaro. Ma è solo un eco nel vento, nel vento che mi risponde. Venga la pace dal mare lontano, venga il silenzio dalle onde. Al mare c'è un punto lontano, così lontano dalle case e dal porto, dove la voce delle cose più chiare è soltanto un ricordo. Ma da quel punto in poi non si distingue più la linea d'ombra, confonde ricordi e persone nel vento. Avemmo padri, avemmo madri, fratelli, amici e conoscenti, ed imparammo a dare un nome nuovo ai nostri sentimenti. E così un giorno a camminare su questa terra sotto a un sole avaro, per un amore che sembrava dolce e si è scoperto amaro. Ma è solo un eco nel vento, nel vento che mi risponde. Venga la pace dal mare lontano, venga il silenzio dalle onde. Ma è solo un eco nel vento che mi risponde. Venga la pace dal mare lontano, venga il silenzio dalle onde.